Sono le 13. GR24, il sole 24 ore. Parmalat dal TAR del Lazio no alla sospensione dell'OPA Lactalis. In vista dei ballottaggi, il voto non indebolisce il governo, dice Berlusconi, esecutivo oggi battuto 4 volte alla Camera. Riflettori su Milano e Napoli, la Moratti cambia parte dello staff, Pisapia riprende gli incontri con gli elettori. Nel pomeriggio le decisioni del Terzo Polo sulle alleanze. Una buona giornata da Anarita D'Ambrosio e dalla redazione. Dunque lo avete sentito nei nostri titoli, a una notizia dell'ultima ora: il TAR del Lazio ha respinto la richiesta di sospensione dell'offerta pubblica di acquisto lanciata dall'Actalis su Parmalat. Ne parleremo tra pochissimo, partiamo però adesso dalla politica, dai ballottaggi. La Moratti che sostituisce il suo staff, Pisapia che riprende gli appuntamenti elettorali. Dunque verso l'appuntamento dei ballottaggi la tensione cresce, soprattutto a Roma, perché ci sono delle novità che riguardano il governo che è stato battuto in aula. Noi ci colleghiamo subito con la capitale, con la nostra Elisabetta Fiorito. Sì, buongiorno. Non è certamente un momento facile per Silvio Berlusconi. Dopo il ballottaggio a Milano, il governo viene battuto 4 volte qui alla Camera sulle mozioni riguardanti la situazione nelle carceri. Fatali le assenze dei deputati del partito del Premier, ma anche dei responsabili e di membri del governo. C'erano infatti solo una decina tra ministri e sottosegretari. L'opposizione è stata compatta al voto, riuscendo a bocciare una parte della mozione della maggioranza, oltre a fare passare i loro testi nelle parti in cui il governo aveva reso parere contrario. Ovviamente l'opposizione esulta per Dario Franceschini, PD, non è affatto male che il governo vada sotto dopo la debacle delle amministrative. Per Antonio Di Pietro l'esecutivo non c'è più e bisogna andare al voto. Ieri il vertice del PDL con Silvio Berlusconi a Palazzo Grazioli, il Premier non commenta ancora pubblicamente i dati delle amministrative, punta a rilanciare l'asse con la Lega dopo le divergenze e le difficoltà soprattutto sulla Libia. Nel frattempo il ministro degli interni Roberto Maroni smentisce che il carroccio si stacchi dal governo per via di Milano. Bossi precisa: Maroni non ha detto che la Lega se ne va. E per il momento qui da Montecitorio è tutto per studio. Grazie ad Elisabetta Fiorito. L'avete sentito dunque, è fondamentale il ruolo della Lega soprattutto a Milano. La base della Lega ha espresso sull'alleanza con il PDL all'indomani del voto delle amministrative non poche perplessità. Dario Ceccarelli ha intervistato Matteo Salvini, il più votato in Consiglio Comunale a Milano. Hanno parlato proprio del voto di Milano. Allora sentiamo. Salvini: una buona parte della Lega è scontenta, sia sul PDL che sulla Moratti. Per il ballottaggio pensate di recuperarla? Sì, riconoscendo gli errori commessi, qualcuno magari non ha votato Moratti per alcuni passaggi come Ecopass, come gli sgomberi dei campi rom che sono stati ancora troppo pochi, però nel programma del Pisapia c'è Ecopass allargato per tutti, fino a 10 euro di sgomberi dei campi rom non si parla proprio, quindi è giusto per fare due esempi che poi al ballottaggio confronti e pesi due persone e due programmi. Sicuramente la Moratti poteva e doveva fare di più, dall'altra parte a sinistra c'è un ritorno indietro di 20 anni. Diciamolo, la Moratti non vi è molto simpatica. Sicuramente noi sui mercati, nelle parrocchie e nelle periferie ci stiamo tutti i giorni dell'anno, non sempre gli altri esponenti anche di centrodestra e la stessa Moratti l'hanno fatto. La gente non dimentica, anche se ripeto, negli ultimi 10 giorni più che della simpatia o antipatia di un candidato andiamo a pesarne le idee. Quindi dal punto di vista delle tasse la Moratti potrà essere antipatica, ma in 5 anni non ha aumentato di 1 euro l'imposizione fiscale a Milano, mentre nel programma della sinistra di Pisapia c'è l'aumento di alcune tasse, di alcune tariffe per chi usa la città, e quindi questa è una sostanziale differenza. Sì, Berlusconi ha fatto dei referendum su se stesso, parlando di tribunale, giustizia, processi, intercettazioni, poi sono usciti i manifesti sulle Brigate Rosse, sul passato di Pisapia e chi se ne frega. Come Lega ci siamo sforzati di parlare dei problemi della città, speriamo che l'abbiano capita anche Berlusconi e il PDL, e i milanesi del Lorenteggio o della Bovisa non sono interessati ai problemi giudiziari di Tizio Di Caio. E tra poco torneremo proprio a Milano per sentire le voci dei due candidati. Intanto questa mattina in bianco nero vi abbiamo chiesto: amministrative, è a rischio la tenuta del governo? Sì per il 60% dei nostri ascoltatori, no per il 40%. Abbiamo parlato della maggioranza sino a questo momento, ora parliamo dell'opposizione. Lo facciamo in diretta con il nostro Vincenzo Miglietta. Vincenzo. Sì, buongiorno, è un'opposizione galvanizzata dal risultato inatteso di Milano e dalle conferme nelle altre città, quella che si prepara di fatto a 10 giorni di campagna elettorale. L'obiettivo è quello di portare a casa l'intera posta, dopo Torino e Bologna anche il capoluogo lombardo e Napoli, di cui i contatti e le consultazioni affinché si realizzino laddove è possibile gli apparentamenti con il terzo polo e con i rappresentanti di Grillo. In casa Partito Democratico Bersani parla intanto di governo che ha esaurito la sua spinta e ora che l'esecutivo si dimetta, aggiunge il leader PD. Resta nel principale partito di opposizione il nodo Napoli, città che ha visto l'insuccesso del candidato PD Morcone. Al ballottaggio sotto al Vesuvio guarda anche l'Italia dei Valori dopo l'affermazione di De Magistris. Ascoltiamo Di Pietro. A Napoli sia io, sia noi dell'Italia dei Valori che De Magistris concordiamo sulla necessità di una grande discontinuità e quindi noi chiediamo al PD un grande gesto di al PD e SEL, un grande gesto di responsabilità e di umiltà. Appoggiare senza riserve, come hanno già dichiarato De Magistris. Ago della bilancia, oltre al terzo polo anche Grillo. Non appoggeremo nessuno, confermano dal Movimento 5 Stelle. Certo, spiegano, il legame con Berlusconi non aiuta la Moratti. E da Roma è tutto. Grazie Vincenzo. Noi chiudiamo il quadro nazionale parlando proprio del terzo polo che nel pomeriggio si esprimerà su questi ballottaggi. Intanto c'è stata già una riunione questa mattina in diretta da Roma. Andrea Viali. Anna Rita, il terzo polo probabilmente lascerà libertà di voto ai suoi elettori a Napoli e quindi, nonostante gli appelli di centrodestra e centrosinistra, non si schiererà né con Lettieri né con De Magistris. Quanto sarebbe emerso stamattina nella riunione qui alla Camera dei Deputati fra i vertici del terzo polo e il suo candidato a Napoli nel primo turno, Pasquino. Tra poco è in programma anche l'incontro col candidato milanese Palmeri, poi si riuniranno i tre leader Fini, Casini e Rutelli che nel pomeriggio alle 4 comunicheranno la posizione ufficiale della coalizione di centro sui ballottaggi. Anche per Milano si profila comunque una decisione simile a quella di Napoli, questo per evitare spaccature viste le divergenze soprattutto fra i finiani. È tutto, Anna Rita. Grazie Andrea, e apriamo il focus sulle città. Milano si riprende da parte di Pisapia con grande slancio, riflette la Moratti sugli errori commessi. Da oggi nuovi manifesti del PDL e cambio di staff per il sindaco uscente. Sentiamo le voci dei due sfidanti. Il distacco è così elevato che rende difficile che si possa perdere, tanto più se si considera che, come dimostrano tutti i ballottaggi del passato a Milano, sono stati al secondo turno sono molto minore le persone che vanno a votare e che hanno votato il primo turno centrodestra che viceversa. Voglio rimettermi in gioco proprio per rafforzare la collaborazione con tutte le forze moderate che hanno bisogno di essere rigenerate, che hanno bisogno di tornare a credere, a pensare positivamente per il proprio futuro. E anche a Napoli si riparte. Claudio Velardi è lo spin doctor di Gianni Lettieri, candidato del PDL. Però Gianni Velardi è stato ex assessore della giunta Bassolino, dunque di centrosinistra. Romolo Napolitano lo ha intervistato sulle prossime mosse del candidato del PDL Lettieri a sindaco di Napoli. Sentiamo Velardi. Ci sono stati contatti con il terzo polo, con Pasquino? Ma questo io non lo so perché non me ne occupo, ma non penso che sia nell'interesse, cioè non penso che sia centrale questo per Gianni Lettieri. Gianni Lettieri fa la sua campagna elettorale, sta lavorando alla composizione della sua squadra di governo e le manovre, diciamo, le operazioni politiche non sono cose di cui si occupa particolarmente. Lei è stato assessore con Bassolino. De Magistris è rinomatamente anti-bassoliniano. Questa è una colossale sciocchezza. Il De Magistris sta in giunta, nella giunta comunale della Iervolino e quindi sta con Bassolino. È una colossale sciocchezza montata ad arte da una propaganda, diciamo, dalla propaganda di De Magistris. Ma è una enorme, colossale bugia. E chi voterà per De Magistris? Voterà tutto il centrosinistra per De Magistris, quindi a partire da Bassolino. E De Magistris questa mattina è stato ospite del nostro Alessandro Milan, ha detto di voler rasserenare la città e di voler recuperare addirittura Mastella. Intanto De Magistris dovrebbe avere sicuramente anche i voti del candidato della PD Morcone, che è uscito di scena. Il Partito Democratico a questo punto si interroga su errori e future mosse. Sempre il nostro Romolo Napolitano ha sentito l'ex segretario provinciale di Napoli del partito di Bersani, Nicola Tremante. Il risultato delle elezioni è un combinato disposto abbastanza evidente, un giudizio di insofferenza, di insoddisfazione verso l'azione amministrativa di questi anni, il cosiddetto ciclo, e ancora più recente il giudizio negativo sul mancato completamento della procedura delle primarie, perché è troppo evidente che lì ci sono elettori del PD che hanno deciso di dare una lezione al PD. E comunque io guardo con interesse e con piacere la dichiarazione sia di Bersani che di Orlando di sostenere De Magistris a prescindere da ogni negoziato. De Magistris però ha fatto una campagna molto anti-bassoliniana. Lei crede che la parte bassoliniana del PD napoletano appoggerà la scelta di De Magistris? Presumo di sì, le dichiarazioni di Cozzolino sono in tal senso e voglio sperare che sia Bassolino che Cozzolino siano leali fino in fondo. Il caso Parmalat adesso, le novità sull'OPA di Lactalis che sono arrivate dal TAR del Lazio, si attende adesso una valutazione del Tribunale in sede collegiale il prossimo 8 giugno. Richiesta respinta. Il Codacons e l'Associazione Utenti Servizi Finanziari avevano chiesto la sospensione dell'offerta pubblica di acquisto per presunte violazioni del testo unico della finanza. Il TAR del Lazio non ha accolto la domanda. Così va al suo posto anche l'ultimo tassello, l'ultimo possibile ostacolo, dell'OPA Lactalis su Parmalat. Il giorno dopo la bocciatura dell'offerta da parte del Consiglio di Collecchio, poco o nulla cambia nella vicenda. Secondo il CDA l'azienda vale più di 2,6 euro per azione. E poi il piano non sarebbe così buono per Parma. Sinergie negli acquisti, ma non nella produzione, e aumento della presenza italiana in mercati già saturi e non nei paesi emergenti. Insomma, il board guidato da Bondi boccia i francesi, ma i francesi difficilmente si preoccuperanno di questa bocciatura, anche perché il giudizio non è vincolante, visto che l'OPA è volontaria. Dunque, i 2,6 euro offerti da Lactalis resteranno tali, e poi, tutto sommato, se le adesioni non arrivassero al 55%, Lactalis potrebbe scegliere di restare ferma dov'è, poco sotto il 30%, ottenendo così il massimo risultato, il controllo del Consiglio, con uno sforzo contenuto. Valeria De Rosa, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Le 13:17 in vista dei ballottaggi, il voto non indebolisce il governo, dice Berlusconi, ma l'esecutivo oggi è stato battuto 4 volte alla Camera. Riflettori su Milano e Napoli, la Moratti cambia parte dello staff, Pisapia riprende gli incontri con gli elettori nel pomeriggio, la conferenza stampa del Terzo Polo. Parmalat dal TAR del Lazio, no alla sospensione dell'offerta pubblica di acquisto di Lactalis. Mafia, 63 arresti tra Sicilia e Lombardia, nel mirino i clan Rinzivillo ed Emanuello. Ancora una buona giornata da Narita D'Ambrosio e dalla redazione. Noi partiamo proprio da qui, dall'operazione Tetragona in primo piano. Sono rimaste coinvolte le province di Varese e Genova. Vi operavano mafiosi di Gela in Sicilia. Una vasta operazione antimafia in corso tra la Sicilia, la Lombardia e la Liguria. La polizia sta notificando 63 ordinanze di carcerazione nei confronti di esponenti dei clan Rinzivillo ed Emanuello di Gela. Sono accusati a vario titolo di estorsione, associazione mafiosa, traffico internazionale di stupefacenti, incendi, detenzione e porto d'armi. L'indagine ha preso le mosse dalla provincia di Caltanissetta, ma è arrivata fino a Genova e Varese, dove esponenti dei due clan si sarebbero insediati da tempo, in particolare i Rinzivillo, che sarebbero arrivati nella zona di Busto Arsizio grazie a imprenditori gelesi compiacenti e una volta lì avrebbero reinvestito il denaro proveniente da attività illecite, principalmente il traffico di droga. In manette anche un dipendente del comune di Gela, Angelo Camiolo, che avrebbe avuto il compito di informare i clan sugli appalti banditi dal comune e successivamente riscuotere il pizzo dagli imprenditori che effettuavano i lavori. Monica Ceravolo, Radio 24, Il Sole 24 Ore. È un'operazione molto importante contro un clan siciliano di Gela che ha interessato anche la mia terra, la provincia di Varese, ha detto il ministro dell'Interno Maroni commentando questa operazione. Berlusconi può essere accusato di tutto, ma con le stragi del 92-93 non c'entra niente, lo ha detto al processo Mori. Oggi il pentito Giovanni Brusca, il collaboratore, ha smentito di non essere mai stato nella villa di Arcore. Dopo l'arresto di Rina ho contattato Vittorio Mangano, ha detto Brusca, il cosiddetto stalliere di Arcore, perché si facesse portavoce di alcune nostre richieste presso Dell'Utri e Berlusconi. Nessun contatto diretto, dunque, dice Brusca, ma Brusca dice anche che negli anni 80 la mafia legata a Stefano Bontade, quella dei cosiddetti perdenti, investì denaro con Dell'Utri e Berlusconi. E adesso noi torniamo all'estero. Il processo a Dominique Strauss-Kahn, se si svolgerà, sarà equo, lo ha assicurato l'influente senatore americano Jeff Sessions, membro della Commissione Giustizia del Senato. Venerdì prossimo, quando uscirà dal carcere di Rikers Island per tornare in aula, Strauss-Kahn dovrebbe difendersi sostenendo che il rapporto sessuale avuto con la cameriera dell'albergo sarebbe stato consensuale. Da parte sua, invece, il legale della donna ha dichiarato che quello subito dalla sua cliente è stato un trauma straordinario. E ci spostiamo in Libia perché si conosce la destinazione della moglie di Gheddafi e del figlio minore del Rais, Muammad Gheddafi. Sarebbero entrambi in Tunisia, sull'isola di Gerba. È stato comunicato proprio questa mattina da un quotidiano panarabo. Del Rais invece ancora nessuna traccia. A Lampedusa gli sbarchi sono resi impossibili dal maltempo, però oggi c'è da segnalare la visita del cardinale Bagnasco. Sono venuto per incrociare il vostro sguardo per dirvi grazie, ha detto durante la messa che ha celebrato questa mattina. La vostra accoglienza fatta di gesti semplici è un esempio, ha detto, per quanti parlano molto e fanno poco. Nuovi dettagli sulla morte di Bin Laden, intanto si fanno più insistenti le voci sul suo successore, è egiziano. La notizia l'ha data la CNN avendola ricevuta da un ex affiliato di Al-Qaeda, ma anche altre fonti sembrano confermarla. Alla guida della rete del terrore sarebbe stato designato un ex membro delle forze speciali egiziane, Saif al-Adel, un nome che significa spada della giustizia. Nel 1981 al-Adel avrebbe partecipato all'uccisione del presidente egiziano Sadat, per poi passare alla resistenza contro l'invasione sovietica dell'Afghanistan. Più avanti negli anni avrebbe organizzato gli attacchi alle ambasciate americane nel 1998 in Tanzania e Kenya. A suo tempo, secondo alcuni, avrebbe sconsigliato Bin Laden dal compiere gli attentati dell'11 di settembre per le ritorsioni che avrebbero potuto provocare, e non certo per bontà. Lui, si dice, predilige gli esplosivi e gli attacchi multipli. Gli ultimi anni al-Adel li avrebbe trascorsi in gran parte in Iran, sotto la tutela dei guardiani della rivoluzione. Adesso, invece, sarebbe in Pakistan. Che la scelta per la successione allo sceicco sia caduta su di lui è considerata da molti un chiaro segnale. Cerchiamo vendetta. Laura Bettini, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Arte per chiudere. Oggi 18 maggio in tutto il mondo si celebra la giornata internazionale dei musei. Ad organizzarla è l'ICOM, l'International Council of Museum. Il presidente di ICOM Italia è Alberto Garlandini, lo ha intervistato Adriana Fracchia. La giornata internazionale dei musei è nata nel lontano 77 ed è stata indetta dall'ICOM, che sarebbe l'International Council of Museums, cioè l'organizzazione internazionale dei musei e dei professionisti museali, che è presente in 147 paesi e ha più di 27.000 iscritti. In pratica in tutto il mondo quest'anno 30.000 musei in 100 paesi fanno delle iniziative dedicate specificamente a temi che sono considerati importanti non solo per i musei ma per la collettività. In particolare quest'anno si tratta del tema del rapporto tra musei e memoria. La memoria è importante conservarla, ma è anche una grande risorsa per costruire il futuro. In pratica in tutto il mondo e anche in Italia, in tutti i musei si fanno iniziative specifiche per riflettere su questo problema della memoria, di come conservarla, di come farne una risorsa. Il tema viene deciso dalla Conferenza Internazionale dei Musei a livello mondiale. A noi è tornato molto utile perché noi che quest'anno festeggiamo i 150 anni del nostro bel paese, abbiamo deciso anche di discutere dei 150 anni di storia dei musei e della museologia e dei museologi italiani, quelli che dal 1861 hanno costruito la nostra storia, perché un uomo, così come una società, una comunità senza memoria di sé, è difficile che riesca a costruirsi un futuro certo e ben augurante. Adesso c'è lo speciale Giro d'Italia, poi Controluce, grazie in regia Fabio Cantadori. Il GR torna alle 14. GR24, Il Sole 24 Ore. Direttore Fabio Tamburini.